Il gastronauta di Davide Paolini. In musica sono chiamati, sono definiti magnifici anni 70, ma in gastronomia sono magnifici oppure sono qualche cos'altro? Bene, oggi discuteremo proprio di questo, questi piatti degli anni, di quegli anni, ma fino forse anche agli anni 80, gli anni della rucola, bene, gli anni appunto della panna, gli anni delle farfalle, gli anni della vodka. Che fine hanno fatto questi piatti? Si fanno ancora? Non si fanno più? Sono spariti? Hanno lasciato traccia nella storia della gastronomia italiana o sono volati via e sono rimasti così ancorati a quel periodo storico? Bene, discuteremo di questo, parleremo di questo, cari radioascoltatori, cari gastronauti, buongiorno. Il numero verde è 800 24 00 24, gli sms 349 238 6666. Intervenite, fateci sapere se ancora cucinate questi piatti, se li avete dimenticati oppure se appunto sono rimasti semplicemente nella memoria come tante canzoni, splendide canzoni degli anni 60. Faremo anche questo paragone con un musicologo. Bene, buongiorno a Beppe Bigazzi. Buongiorno Davide. Beppe, cosa ti è rimasto degli anni 70, della panna, della vodka? Grazie a Dio lavoravo, era all'estero allora, e perciò ho perso le belle canzoni, ma ho guadagnato le cattive abitudini alimentari. Sì. Erano veramente cattive, devo dire, perché panna se ne consumava vagoni. Che purtroppo continua ancora oggi, con aggravanti, perché non è che è passato quel periodo. Le aggravanti sono che ormai molte cucine, parlo di ristoranti, trattorie, osterie, eccetera, quando ci sono, perché non sempre ci sono, utilizzano semilavorati. Accade un po' quello che è accaduto nella gelateria. La gente usa semilavorati, petti d'anatra e il resto? Cosce di coniglio e il resto? Sella di coniglio e così via. Non c'è più, se non i grandissimi e le osterie, trattorie, ristoranti seri, che usano tutto l'animale. Ecco, ma tu dici che veramente c'è qualcuno che è ancora in cucina di ristorazione, insomma, usa la panna per amalgamare, sì? Beh, a fiumi. A fiumi. Quindi diciamo che quelle cattive abitudini degli anni 70 continuano. Meno male che la vodka magari è sparita dai primi piatti. Quella, grazie a Dio, le pennette alla vodka. Sì, sì. Un allucinante ricordo. Ma anche le farfalle salmone panna. Mamma mia! E c'era dei raffinati che facevano, questo me l'hanno raccontato i miei figli, che facevano farfalle, salmone e come si chiama? Panna. Caviale e panna. Ma guarda, ci sono anche delle pennette, così ho raccolto un po' di informazioni, che si chiamano pennette alla Sancho Pancia. Sì, ma voglio dire, insomma, nei letti di verdure varie è improbabile come la rucola che hai ricordato. Senti, ti interrompo un secondo perché abbiamo già un radioascoltatore, sentiamo cosa ci racconta. Andrea da Padova, buongiorno Andrea. Sì, buongiorno a lei. Io volevo segnalare, la trovavo soprattutto nei primi anni 80, poi un po' sparita. Beh, c'era l'uso delle penne e delle mezze penne e c'era una variante, zucchine, curry e panna. E questa proprio poi non l'ho più rivista. E un'altra variante invece che si trova magari anche oggi, però all'epoca, ecco, aveva il denominatore comune della panna, erano sempre le mezze penne con il radicchio, panna e i gamberetti. Oggi qualcuno fa ancora la binata con il gamberetto, lo scampo e il radicchio, però ecco, la panna è sparita, quindi forse il denominatore comune era proprio il discorso della panna. E sono anche forse spariti come proposta i formati tipo mezze penne. Tutto qua. Beh, no, i formati esistono ancora, si chiamano mezze maniche, ma insomma ci sono ancora, no? Il problema dei formati, se Dio vuole, sono rimasti. Anche le farfalle sono rimaste, però cioè, quando sono fatte di pasta, cioè di pasta di grano duro d'altro, cioè, sono ben accette. Grazie Andrea. Torno un secondo a Beppe Bigazzi perché poi lo devo lasciare, che so che ha un aereo. Beppe, ma secondo te questi cucinieri di quegli anni, dove sono finiti? Ci saranno ancora in giro? Io spero siano morti. Scusa, diciamo morti gastronomicamente. Purtroppo hanno degli eredi. Sì. Se tu avessi la disgrazia che ho io di essere invitato molto spesso a matrimoni, cresime e cose, ti accorgeresti che quegli allucinanti anni continuano. Tant'è vero che in una trasmissione televisiva io dissi: quando siete invitati a un matrimonio, cresima comunione, la prima cosa che dovete accertarvi è il percorso più breve per l'ospedale. Addirittura? Sì! Dai, continuano lì. Poi la riunione conviviale continua nella... come si chiama... nella cosa d'urgenza, no? Dove... nella sala d'urgenza, in ospedale, tu dici. E poi vengono messi tutti in un grande stanzone insieme e continuano a parlare fra una corsa al bagno, eccetera. Perché? Ma perché i gamberetti in salsa rosa è un classico. Certo. Il riso, in questi casi, viene mantecato con la panna perché usano il riso parboiled. No, non hanno scelta perché non lo fanno espresso. Riso parboiled e panna e altri intrugli. Per cui continuano, e ripeto, l'aggravante è che ti servono 300 mezze aragoste tutte uguali, 300 selle di coniglio tutte uguali, e il resto? Eh sì, il resto manca, come si dice. Grazie Beppe. Un abbraccione Davide. Grazie, ciao. A presto. Sentiamo Maurizio da Verbagno, radioascoltatore. Salve Davide, io ho proposto dei tagliolini al salmone affumicato, sì, con la vodka, ma la vodka trattata al peperoncino, addirittura, e tutto fatto con la panna. Devo dire che hanno avuto grande successo con i miei amici. Ma tu l'hai fatto ultimamente questo? Sì, anche recentemente. Bene, grazie Maurizio della tua testimonianza. Certo che dopo il quadro apocalittico che ha fatto il nostro amico Bigazzi, sicuramente possiamo continuare su questa linea. Il gastronauta. Buona giornata ancora, cari gastronauti. Ebbene, oggi parliamo di anni 70 e arriviamo quasi agli anni 80 con dei piatti che hanno lasciato un segno, sembra, perché molti stanno chiamando dicendo: ancora facciamo questo. Stiamo parlando di panna, stiamo parlando di piselli, stiamo parlando di prosciutto, stiamo parlando delle tre P che imperversavano, e poi stiamo parlando anche di vodka, perché la vodka era usata veramente in grande quantità. Bene, io ho ricevuto un SMS che leggo molto volentieri, perché dà un po', come posso dire, ancora adito al dibattito. Non ci trovo molto da ridere, a me piacevano e piacciono a tanti. Dominique de Caserta, brava Dominique. Magari se intervenisse anche al telefono ne potremmo discutere, sarei molto ma molto contento. Sentiamo però Antonio da Besana. Buongiorno Antonio da Besana. Ciao Davide, io volevo praticamente segnalare un piatto che si faceva negli anni 70 ed era l'ananas, la fetta di ananas col gelato e con il caramello. Beh, mi pare da capire dalla voce che lei è un ristoratore. Sì. Ecco, poi volevo dire che a me piace collezionare tutti i libri di ricette degli anni 60 e 70, ne ho diversi. Adesso ne ho preso uno, il primo che mi è capitato, di un ristorante di Fidenza, dove ci sono, non so, tipo gelato russo fatto con le uova sode, che è una specie di tiramisù, però fatto con le uova sode mischiate con il burro e la panna, è poi messo a strati con i savoiardi al Marsala. Bene, insomma, leggerino. Antonio, ma lei, io so che lei è a Villa Raverio, quindi ho già individuato chi è, ma fa ancora la zuppa inglese? Sì, zuppa inglese. Quella salviamola, salviamola. Sì. Ma poi devo anche dire, se mi permette, un'ultima cosa, che io quando lavoravo nel Salmone di Monte Napoleone negli anni 70 c'era un piatto che andava fortissimo, che si chiamava chicken pie, che era un pasticcio di pollo cotto nel whisky. Bene, insomma, vodka, whisky, grazie Antonio. Allora, abbiamo con noi un esperto musicale, che è Chicco Giuliani, giornalista e speaker radiofonico. Buongiorno Giuliani. Buongiorno, ciao Davide, a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Senti, noi dobbiamo buttare via gli anni 70, ma non pare, da quanto sta venendo fuori, in cucina, ma in musica no, assolutamente, vero? Beh, musicalmente no, assolutamente no. Ricordiamoci che gli anni 70 in Italia, in particolar modo, sono stati gli anni dei cantautori. Io però avrei forse una chiave di lettura proprio in riferimento anche ai cibi, no? Magari la risposta della cucina è che ha una certa rigidità di certi contenuti cantautorali, appunto tutti così rivolti al sociale e al politico, appunto in cucina si rispondesse con questi abbinamenti arditi e un po' kitsch dei quali appunto avete parlato voi fino a questo punto. Quindi è una notazione sociologica la tua della reazione. Sì, ma io invece un'altra chiave interpretativa, che la panna diciamo era un po' come il simbolo, se vogliamo, di una rinascita, di una ricchezza, sembrava qualcosa di importante, molto pubblicizzato in televisione, quindi era, come posso dire, uno specchietto per le allodole per il consumo. Io do questa chiave, insomma, anche la vodka e il whisky che abbiamo sentito degli anni 70 erano un po' questo, diciamo, sogno esterofilo, insomma, di sentirsi internazionali, e nonostante avessimo una cucina che era straordinaria, appunto, dal punto di vista, se vogliamo, delle nostre conoscenze e della nostra storia e realtà. Bene, Chico, rimani con noi. Ora abbiamo un ristoratore importante di Firenze, Fabio Picchi. Buongiorno Fabio del Cibreo. Buongiorno Davide, come stai? Bene, Fabio da anni fa una cucina che si rifà alla tradizione toscana. Gli voglio chiedere, ma c'è qualche piatto degli anni 70 a cui ti sei rifatto, che hai reinterpretato, Fabio? Beh sì, guarda, proprio di recente ho ripreso in mano il girello all'alvese, che avevo ucciso quando mi toccava sprecare troppe parole nel mio ristorante per dire no, non è carpaccio, ma è girello all'alvese. E a un certo punto negli anni 70 non ce l'ho fatta più, proprio uccisi quel piatto, lo tolsi dal mio menù pur amandolo tantissimo, e di recente, approfittando di un contadino che si è messo a ritirare fuori la minutina insalata, non so come si chiama fuori di Firenze, comunque scomparsa negli anni 60, era questa insalata fatta tipo a fili d'erba fini, e insomma, guardando questa cassetta di minutina, gioco forza, ho riflettuto sul girello all'albese, che era stato ucciso dal carpaccio in rughetta, non so se ti ricordi. Sì, sì, certo, certo. E ho riproposto il girello all'albese non con i funghi, non con il tartufo, non con i carciofi come facevamo negli anni 70, ma con questa minutina condita, oh mamma, te lo dico, sì, con olio, limone e un cucchiaio di yogurt, e perché no, mezzo cucchiaio di parmigiano. Frullato il tutto, provate per credere, buonissimo, quindi proprio una riproposta anni 70, un po' rielaborata. Bene, io credo che ci siano delle riproposte da fare, addirittura c'è un radioascoltatore che ci scrive scandalizzato, ma cos'ha che non va con la panna? Perché è grassa, allora abbiamo i formaggi, le carni e così, esatto, via. Erano d'accordo con lui. erano i primi tentativi di rompere la tradizione, dice. Sì, ma è vero, poi c'è sempre stata una grandissima confusione su questo argomento della panna, perché un conto è il latte a lunga conservazione e un conto è il latte fresco, idem un conto è la panna orribile a lunga conservazione, orribile a mio giudizio per il mio gusto ovviamente, ma davanti a una panna fresca lecito è usarla, se no si va nelle solite banalità. Davide, tu lo sai, sei un anticonformista per tua natura, ma ciò nonostante il conformismo di ritorno, c'è stato un momento in cui se uno faceva le triglie alla Livornese qualche collega, giornalista, gastronomo si inorridiva all'idea della vicinanza del pomodoro con il pesce, ma basta, cioè per l'amor del cielo, quando abbiamo delle cascate di pesce lo mangi bollito una volta, ma la volta dopo con un aglio, pomodoro, prezzemolo e peperoncino è fantastico, muove le endorfine. La panna a Sorresina, c'era una vecchia bottega che faceva una pioggia di panna fresca su delle tagliatelline arrotolate con un ragù, che era una roba straordinaria. Viva la panna, bene, buona e di qualità. Bene, grazie Fabio, grazie, grazie. Sentiamo Luana da Padova. Buongiorno Luana. Buongiorno mitico Davide. Niente, io volevo segnalare, io ho un piccolo ristorantino e volevo segnalare l'obbrobrio che mi chiedono sempre e io mi rifiuto categoricamente, la pasta alla carbonara con la panna, sì. Un obbrobrio pazzesco, non sì. Sanno neanche l'etomologia, niente, sì. Ecco, volevo segnalare, grazie, questo. Grazie Luana, dica. Niente, volevo segnalare questa cosa, mondo intero, la ringrazio. La panna non si va. Grazie Luana, grazie. Sentiamo Maria Paola da Milano, buongiorno Maria Paola. Buongiorno, io vorrei commemorare il mitico risotto con la foglia d'oro. e il pranzino a vapore con due carotine. Ecco, io ho partecipato a una di quelle serate lì in via Bovesin dalla Riva. Sembrava di essere al Castello Incantato, che quando si usciva bisognava dire che era una meraviglia. Vogliamo pensare a quel risotto terrificante. Bene, Maria Paola, guardi, fra poco avremo Gualtiero Marchesi, comunicheremo la sua annotazione. Grazie, sentiamo Filippo dalla provincia di Novara. Buongiorno Filippo. Sì, buongiorno Paolini. Dica. Senta, io sono un rappresentante di alimentari, quindi nella ristorazione ci lavoro quotidianamente, no? Principalmente se abbiamo ristoranti, gastronomie e così. E confermo quello che diceva il suo ospite, che ormai i tagli di carne sono proprio ristretti ai classici, perché anche sul manzo usano o filetto o roast beef, qualche magatello in estate, sul coniglio si usa la stella o qualche altro taglio, ma sono pochissimi. Quindi, ma secondo me il problema grosso è che c'è purtroppo, e qualcuno magari mi darà anche contro, una poca professionalità. Bene, Filippo, sì. Guardi, io ho proposto la rottamazione del filetto, pensi lei, quindi in una campagna che ho fatto. Che sia giusto, ma infatti anche noi venditori a volte ci troviamo in difficoltà, perché i prezzi durante quel periodo che il filetto va tanto aumentano, quindi bisogna cercare un'alternativa anche per fare una tartare, eccetera. Nella casalinga ormai va al supermercato e ha trovato questi tagli alternativi, tipo il codone, così. Invece il ristoratore ancora non le ha trovate. Purtroppo si fa prima, si fa presto. Bene. Grazie Filippo, grazie Filippo per questo apporto, diciamo, di macelleria, fa sempre piacere. Ritorniamo a Chico Giuliani. Chico, anni 70, anni 80, ma vanno fortissimo ancora, perché quando si sentono radio che continuamente danno così autori di allora molto importanti, continuano Battisti, per esempio. Certo, assolutamente, il successo continua, e questo ce lo dicono anche le classifiche, per esempio sotto Natale, con le grosse vendite dei tanti cofanetti celebrativi, appunto, di artisti come Lucio Battisti, oppure il grande successo di un cantautore come Fabrizio De André, lo spettacolo che il figlio Cristiano sta portando ancora in giro per tutti i teatri italiani, appunto, ne è una testimonianza. Sono canzoni che non muoiono mai, insomma, sono evergreen, per quanto appunto politicamente e socialmente impegnate, che è un po' quello che stavo dicendo prima. Grazie a Chico Giuliani, a presto. Bene, abbiamo con noi una delle sorelle simili che ultimamente hanno fatto un successo diciamo editoriale davvero straordinario con i loro libri, appunto, di cucina, di una cucina molto semplice, una cucina di casa. Buongiorno Valeria Simili. Buongiorno a lei, salve, mi dica. Volevo chiederle, cosa le è rimasta a lei degli anni 70, dei piatti degli anni 70? Ma senta, cosa mi è rimasto? Io intanto le dico, gli anni 70 sono, io che ho 73 anni non li considero neanche tanto lontani. I piatti degli anni 70 in qualche modo erano abbastanza simili a quello che si fa adesso. Ecco, sai cosa c'è? La differenza sostanziale tra gli anni 70 e quelli dei nostri giorni è che le donne una volta intanto, soprattutto nel sud, lavoravano molto meno di adesso, e come in tutta Italia si usavano soprattutto i prodotti del territorio. La preparazione del cibo era più attenta, si prendeva anche più tempo perché non avevano ancora in casa tutti quegli attrezzi e quegli aiuti come i robot, i microonde, i frullatori, eccetera. Per cui la preparazione del cibo era una cosa seria proprio. Adesso tutto questo non esiste più, perché, come ne sa, le donne lavorano, sono fuori casa tutto il giorno, e quindi il risultato finale è... No, cosa ne pensa dell'uso indiscriminato della panna, che era quel periodo, insomma? Quello proprio, noi non riusciamo proprio ad accettarlo. Vede, nelle nostre campagne si usava per esempio nel ragù, si usava la panna, che era però quella cotta, quando si bolliva il latte, e naturalmente c'era un latte migliore, più ricco di adesso, lo strato superiore che si addensava e diventava una panna buonissima, ecco, quella per esempio la mettevano nel ragù. Ma l'unica cosa in cui che si adoperava era un po' quella, perché di panna soprattutto, e poi devo dire la verità, anche qui al nord, dove è pensabile che si sarebbe adoperata più panna, perché ne abbiamo di più qui al sud, però in assoluto non si usava. Beh, insomma, tortellini, panna e prosciutto era un boom, anche piselli, infatti, paglia e fieno e piselli e panna, insomma, cioè, erano molto diffusi. Ma sì, ma negli anni 70, le dico. Certo, negli anni 70, dico, sì. Io ripeto, trovo che il vero momento di grande trasformazione è stato negli anni 70, 60. Probabilmente negli anni 60 ci si appoggiava già a queste cose, noi non l'accettiamo in assoluto, una cosa del genere. La panna non la usiamo in assoluto nei nostri cibi. Sì, negli anni 70, vede, non avevano ancora, intanto gli alimentari non viaggiavano come viaggiano adesso, per cui negli anni 70 sì, probabilmente mettevano già la panna nei ragù e quando facevano le paste, perché era una trovata da ricchi un po'. È vero, sì, forse c'era anche questa annotazione, il discorso che abbiamo fatto prima di imitazione. Bene, io ringrazio Valeria Simili, appunto con la sorella autrici di libri che hanno avuto un successo straordinario in libreria, libri semplici sicuramente da usare a casa, ce n'è anche uno con diciamo basato tutto sul mattarello, quindi viva il mattarello e viva la cucina di casa fatta in questa maniera. Grazie, grazie. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare degli anni 70, di panna, piselli, farfalle. Però prima di entrare ancora di nuovo nel vivo di questa trasmissione devo rispondere a un SMS molto serio che mi chiede come mai invece di parlare di cibo non parlo del dramma di Haiti. Io credo che sicuramente il dramma sia terrificante, ma sarebbe anche veramente ridicolo e ingiusto che io trasformassi questa trasmissione in qualcosa che riguarda Haiti. Sicuramente non posso fare raccolta di cibo attraverso questa trasmissione perché non avrei i canali a cui indirizzarle. Poi ritengo che ci siano altre trasmissioni che lo devono fare e lo fanno molto ma molto meglio. Bene, proseguiamo, volevo sentire Francesco da Cuneo. Buongiorno Francesco. Buongiorno, buongiorno. Io volevo spendere una parola di Cesare Lapanna. Io faccio il cuoco da molti anni, lo chef, faccio un menù anni 70 con gamberetti, no, cioè nel senso lo faccio ogni tanto, con gamberetti in salsa rosa. E la panna è un ingrediente, come il burro, come tutti gli ingredienti, non va criminalizzato, non va usato in modo esagerato, ma non va neanche preso come... Ecco, lei ha detto una parola, diciamo la parola giusta, ha detto non va usato in modo esagerato. Gli anni 70 veniva usato in tutte le salse, come si dice, quindi a sproposito. Sono molte combinazioni con la panna che erano veramente ridicole, semplicemente per l'utilizzo della panna, perché abbiamo visto, forse aveva anche dei significati, se vogliamo, antropologici, molto particolari in quel periodo. Quindi non criminalizziamo la panna, soprattutto non criminalizziamo la panna che ci è stata descritta prima, cioè quella che viene prodotta anche per l'uso della panna. Come? C'era un motivo per romperla. Per amalgamare. Non solo, la panna era, voleva dire quella cucina, quella che mangiavi fuori di casa, la cucina che mangiavi in birreria, la cucina che mangiavi diversa da quella della nonna, della mamma, voleva dire fare qualcosa che fosse un po' diverso. Ecco, magari ancoriamolo in birreria, secondo me andavano benissimo in birreria, o in discoteca, come mi hanno scritto molti radioascoltatori che erano piatti da discoteca. Bene, Davide Scabin, ciao Davide. Ciao come Davide a tutti gli ascoltatori. Davide fa ad esempio delle farfalle molto particolari, anni 70, in un contenitore col burro, si sbattono, però gli ha dato un contesto una pasta al burro che si può servire fino per 1000 persone, perché ognuno se la condisce praticamente. L'ultima operazione è quella che dovrebbe essere fatta in padella, la mantecatura te la fai al tavolo con questo shaker, così diciamo, composto da due contenitori di plastica, quindi una versione comoda per essere sicuri di aver risultato per un grande numero. Tu cosa ne pensi degli anni 70? Hai ripreso qualche piatto, lo hai come questo, lo hai così reinventato, riproposto, insomma? Che tu sei molto attento a questo. Sincero, sì. Secondo me stiamo parlando, perché tra gli anni 70 e gli anni 80, poi ti chiedo scusa, come al solito io non mi metto in ascolto prima, arrivo sempre così quando mi metto in un collegamento e non so cosa è stato detto prima, però lo posso immaginare. Ma c'è una bella differenza tra gli anni 70 e gli anni 80. Io di cose riprese da quel tempo, diciamo che io ho iniziato, tra l'altro, guarda, prendo l'occasione per farmi gli auguri da solo, perché il 5 febbraio compio 30 anni di professione. Quindi il 5 febbraio dell'80, il primo giorno che ho fatto il primo servizio nella cucina. Quello che mi fa pensare è la differenza degli ingredienti, delle materie prime. Sì. Negli anni 70 eravamo più vincolati ancora a materie prime, tutto un po' abbastanza made in Italy. negli anni 80 abbiamo incominciato ad avere le contaminazioni, c'era una cosa, era il cuore di palma, il palmito, non so se te lo ricordi. Sì, certo. Ecco, dal palmito, l'aringa, il mais, venivano fuori il primo surimi, no? Era chiamata polpa di granchio, c'era l'esplosione dei frutti esotici, la carambola, la papaya, il licci, che erano già conosciuti precedentemente, però l'uso è incominciato un po' a diffondersi fino agli anni 70 e inizio anni 80, mentre sugli anni 70 avevamo erano più radicati su quello che era un discorso molto territoriale, molto regionale. Automaticamente la ripresa di certi piatti degli anni 70 può essere fattibile, degli anni 80 può essere solo una parodia, cioè quella a cavallo tra gli anni 70 e 80 è più una parodia. Poi tranquillamente è molto carino rifare un panna piselli prosciutto che abbia una certa leggerezza, anche se poi uno fa un grande tortellino. Certo. L'importante è quello. Ma tu dicevi, ma io gli anni 70 rivedo anche qui come, cioè sul finire degli anni 70, un'imitazione, un qualcosa di voler correre all'estero, ad esempio la vodka, bravo, il whisky, cioè era un po' come dire questo senso di esterofilia che poi diciamo era sbocciato anche in altre tipologie di consumo. Sai cos'è? È che verso l'80 e qualcosa, se non mi ricordo male, la grande Fiammetta Fadda, direttore di Grand Gourmet. Grand Gourmet ha dato la svolta. Io parlo nella ristorazione, tra virgolette, quella di fascia alta, che poi comunque è poi quella che si scimmiotta, no? Certo, in tutti certo. I modi, che fa la tendenza. Perché lì, cioè, i grandi protagonisti erano i tedeschi, non so... Cioè, parliamo della cucina degli anni 70, ma parliamo anche che sembra quasi che i tedeschi poi siano scomparsi. È vero, è vero. E noi c'eravamo nel periodo, cioè da Winkler a Wilzelmann, cioè eravamo tappezzati dai tedeschi, che se la giocavano con qualche grandissimo francese, logicamente, però a ricordarmi così a memoria, perché l'altra sera poi ho scartabellato nella mia libreria e mi sono venuti in mano 5 numeri della cucina italiana dell'anno 70, e ti posso garantire che a vedere la differenza proprio grafica tra quell'edizione e un'edizione dell'87, se non mi sbaglio, sembrava che in mezzo ci fosse passato 100 anni. Tutto cambia, tutto cambia. Sì, ma c'è stata una grandissima evoluzione, cioè, proprio. Rimani con noi perché abbiamo un paio di radioascoltatori. Ah, no, Rosario da Milano. Buongiorno Rosario. Buongiorno, dottor Paolino, buongiorno. Sì. Volevo qualche informazione di un piatto scomparso, il sanguinaccio, se aveva qualche informazione in mezzo. Guarda, il sanguinaccio in molte aree è scomparso per motivi di igienici. L'USL, diciamo, interviene sul discorso del sangue di maiale, è vietato, quindi è vietato l'uso e c'è tutta una serie di regolamentazioni molto particolari. Credo che questa sia la ragione. Sentiamo Giorgio Menna da Bologna, un collega radiofonico. Buongiorno Giorgio. Buongiorno Davide, buongiorno a te, ciao. No, brevemente volevo, benvengono intanto tutti i piatti, le elaborazioni degli anni 70, perché ci portavano fuori casa, come ha detto poi il collega precedentemente, cioè a casa, almeno nella mia cucina, si mangiava pasta e patate, pasta e piselli, pasta e ceci, tutte queste elaborazioni, la pasta con naturalmente i sughi e i ragù, e quando andavi fuori anche in discoteca c'erano queste elaborazioni con la panna, vodka e quant'altro, quindi benvenga, è una memoria assolutamente da salvare. È curioso invece sottolineare che già in quel periodo, visto queste elaborazioni che prendevano piede, il buon Gino Veronelli già parlava di tradizione, cioè tentava già quel discorso che ancora oggi è lungo, di salvaguardia della tradizione, cosa che, e concludo, assolutamente non viene, come dire, in parte ancora fatta, siamo ancora in prima linea. Vediamo in questi giorni, ci tenevo a sottolineare, quanto per esempio il nostro ragù e le nostre tagliatelle stiano facendo il giro del mondo in queste ore, sì, con elaborazioni improbabili, con l'utilizzo di carni e materia prima improbabile, e naturalmente non avendo contattato assolutamente tutta la cultura bolognese. Noi di Bologna non sappiamo nulla di questo progetto. Bene, grazie. Ciao, grazie Giorgio. Ciao. Abbiamo con noi Stefania Barzini, che ha scritto un libro importante appunto sul cibo, e volevo chiedere a lei sugli anni 70 se, diciamo, l'eredità che ci ha lasciato è veramente così negativa come molti sostengono, oppure se c'è anche molto da salvare. Buongiorno Stefania. Buongiorno. Ma io diciamo che sono abbastanza negativa, nel senso che trovo che quello che è accaduto in quegli anni è stata una gran confusione, per cui in realtà gran parte o quasi tutto quello poi che in qualche modo è stato di moda, diciamo, quantomeno in quegli anni, adesso devo dire anche ringraziando il cielo, la panna, è difficilissimo trovarla e va anche bene così, diciamo. E quello che forse è restato più che altro di positivo che può essere è che in contemporanea, diciamo, con fenomeni modaioli, è nato in quel periodo un desiderio di tornare a un modo di alimentarsi più sano, ecco, quello sì, che poi ha lavorato negli anni, non in particolare negli anni 80, ma poi comunque sicuramente negli anni 90 al giorno d'oggi, insomma è nato lì, ecco, questa, anche è nato il guaio, è nato il pasticcio, ma è nata anche l'idea e la convinzione che dal pasticcio bisognava uscirne, ecco, penso che se c'è qualcosa da salvare è quell'atteggiamento lì. E la panna? E la panna no, per me deve morire, ma questo è un mio cioè deve morire a meno che non sia sui dolci, io proprio non, ma è una mia pecca forse. È di molti, devo dire. Vedo anche i radioascoltatori che mandano gli SMS, diciamo che siamo a un 50-50, chi la ama, chi invece dice che bisogna abolirla, quindi ecco, va bene, diciamo ora. Che se facciamo un referendum non so come si arriverà. Bene, grazie a Stefania. Grazie a te, grazie. Sentiamo Paolo da Carrara, velocissimo Paolo. Allora, signor Davide, gli volevo dire, mio zio c'aveva un ristorante a Carrara, si chiamava Ristorante Soldaini, molto famoso, e mi ha sempre detto che quando si usa la panna vuol dire che da mangiare se ne sa far poco. Bene, grazie Paolo. Il gastronauta. Eccoci di nuovo tra panna, vodka, farfalle. Federica da Roma, una radioascoltatrice, buongiorno. Buongiorno. No, chiamavo solo per ricordarvi due piatti, due secondi, perché sento sempre parlare di primi. Sono il vitello tonnato e poi un piatto che il mio ragazzo mi ripropone ultimamente, ovvero patate, viscere e maionese. Beh, io direi che, insomma, vitello tonnato non è proprio... Ah, no? No, beh, è nella storia, diciamo, anche della gastronomia, insomma, è un piatto che è rimasto molto fisso. Non c'è stato il momento di boom e poi è sparito. Grazie a Federica da Roma. Torno a Davide Scabin. Tu pensi che gli anni, abbiamo detto anni 70 e 80, tu giustamente hai fatto uno stacco. Ma dopo, anche se andiamo un po' fuori tema, dopo gli anni 80, secondo te c'è una continuità o ci sono anche grandi fasi di rottura? Guarda, penso che stiamo vivendo la seconda rivoluzione, il secondo rimpasto. Quello che è stato detto prima degli anni 70 che hanno creato confusione, ma come giustamente, perché stavano iniziando ad arrivare i primi influssi della chiamata la nouvelle cuisine, che noi abbiamo visto come mangiar poco, non c'era niente nel piatto e queste cose strane, ma si iniziava a percepire, ad avere questo influsso di questo nuovo modo di vedere una cucina che poi comunque ha gettato le basi della cucina moderna. Giustamente poi ci è andato quasi un decennio per pulirsi, per venire fuori nelle sue cose salienti. Il problema italiano è quello che purtroppo cade sempre dentro a un influsso, una rivoluzione che fondamentalmente prendiamo da fuori, quando dovremmo farne partire una rivoluzione interna. E questo è quello che io vedo un po' così, perché gli anni 70 ha gettato le basi per la nouvelle cuisine, che poi noi siamo riusciti a decantare e a far sbottare nell'unico barlume forse mondiale della cucina mediterranea, che tra l'altro ci hanno fatto sbottare gli americani, perché loro si sono un po' inventati lo stile mediterraneo, no? Della dieta mediterranea. Quindi questa è stata una rivoluzione che ha portato poi a un ripulirsi, a venire fuori col Mediterraneo, che tra l'altro poi, ripeto, in quegli anni 80 era dei tedeschi che facevano delle applicazioni di pulizie di pesci, di brodi, di guazzetti pulitissimi, che sembravano che dovessero essere quelli italiani. Dopodiché siamo ritornati alla prima grossa rivoluzione italiana, che è stata quella del territorio. Bene, Davide, rimani ancora con noi. Abbiamo un personaggio che ha vissuto diciamo, tutto il periodo, anzi da forse ancora prima degli anni 70, con la sua stanza, come lui chiama, ed è Arrigo Cipriani dell'Aris Bar di Venezia. Buongiorno Arrigo. Come va Davide? Bene Arrigo, ho letto proprio questi giorni il suo ultimo libro e mi sono molto divertito, devo dire. È proprio lei che, diciamo, la cucina della stanza, ora me la chiamo così anch'io, la cucina della stanza è rimasta invariata, nel senso che il risotto primavera, le seppioline, cioè, e tanti piatti sono rimasti tali quali. Cioè, lei non ha sentito assolutamente dell'influenza di nessun momento. No, direi di no. Noi facciamo la stessa cucina che facevamo, diciamo, 40 anni fa, va bene? Ecco. Effettivamente, adesso ho sentito l'ultimo intervento, diciamo che la rivoluzione del 68 ha portato a una rivoluzione anche nella cucina. Ed è stato, tu sai che succede così, quando ci sono le grandi crisi la gente si butta sul mangiare semplice, perché vogliono in qualche modo semplice, ma però anche legato alla tradizione. Quando c'è grande benessere invece si mette una dieta. Comunque questa rivoluzione del 68, che è stata la rivoluzione del benessere in fondo, perché non è stata la rivoluzione dei poveri, ha portato alla grande la grande importanza della forma. Si è pensato quasi esclusivamente solo alla forma, i grandi piatti, i piatti molto molto elaborati. Quindi è stata copiata in Italia male, secondo me, e ancora se ne sente le conseguenze. Io sono sempre del parere che la nostra cucina ha un DNA che è un DNA internazionale, mondiale, e che è proprio a tutti gli uomini, e questo bisogna seguire. Ecco, questo, assolutamente, ecco, questo. Gli anni 70 sono stati segnati molto dalla panna, diciamo che aveva invaso le cucine. Sì, certo, sì, che poi non era leggera, tra l'altro. Ecco, c'era la panna, c'era la vodka, c'era il famoso pennetto alla vodka, c'era sicuramente le farfalle. Sono una serie di cose che io scopro dalle SMS dei radioascoltatori, degli interventi, che in realtà non sono morti, perché nelle case e alcuni ristoratori continuano a farle. Sì, perché la panna è facile, voglio dire, fare un piatto con la panna è molto facile, lo prepari e poi ci butti la panna sopra, non serve neanche a fare una salsa in fondo. E questo è l'uso della panna, è l'uso di quelli che non sanno fare la cucina, secondo me. Cipriani, c'è un piatto che voi nel tempo avete escluso dal vostro menù? Ma escluso, non saprei, veramente a periodi la gente chiede si indirizza più su certi piatti che su altri, però non è mai stato escluso nessun piatto dei nostri piatti della tradizione, perché tanto è vero che noi riportiamo sempre su una pagina del menù i nostri piatti tradizionali, perché se arriva un cliente dopo 2-3 anni che non li vede dice: ah, avete cambiato tutto, invece non abbiamo cambiato niente. Bene, grazie ad Arrigo Cipriani col suo ultimo libro, che è veramente molto ma molto divertente, tanti anni in quella stanza. Grazie Arrigo e a presto. Sentiamo Claudio da Firenze, un radioascoltatore. Buongiorno Claudio. Buongiorno, io mi ricordo anche i petti di pollo, panna e funghi, e molti fragole con la panna, come, cioè, diciamo che c'erano dei piatti anche del pesce che molte volte magari erano per coprire i sapori di non troppa freschezza, però giù panna a tutto andare, come cosa per unire i sapori. Bene, grazie Claudio. Sentiamo Giulio da Torino. Buongiorno Giulio. Salve, io volevo ricordare che negli anni 80 arrivarono i primi McDonald's o fast food, diciamo, e quindi si diffuse un po' la moda di iniziare a friggere le patatine fritte con quella forma particolare, e anche il ketchup. Io mi ricordo iniziarono a trovarsi nelle tavole, anche nelle pizzerie, nei ristoranti, il ketchup servito a tavola. Grazie, sentiamo Antonella da Parma. Buongiorno Antonella. Sì, buongiorno Davide. Viva Dio, la panna non esiste più. Io sono per una cucina assolutamente light, e anzi approfitto per sollecitare in lei una trasmissione su cucine anche alternative, tipo quella vegetariana, tipo quella bioenergetica, eccetera. Grazie. Bene, grazie Antonella. Devo dire che c'è qualcuno che scopre l'acqua calda, c'è uno che scrive: lei come il ministro Zaia deve essere seguace della confraternita del baccalà, salvo scoprire che a Vicenza il baccalà non viene allevato. Bene, grande scoperta, caro signore. Continuiamo a leggere dei SMS, perché veramente c'è un po' di tutto. A Martignano in provincia di Lecce si continua a fare fare il sanguignaccio. Vorrei sapere da questa signora però se viene fatto a casa oppure viene fatto da un locale pubblico, insomma. Ciao, sono Massimo dalla Sicilia, ho mangiato la panna vegetale ma non mi sono sentito appesantito. Vabbè, e poi ancora vediamo, perché veramente gli sms sono tanti, ma nel frattempo voglio chiedere un'ultima cosa a Davide Scabin. Bene, ma Davide, questo piatto che imperversava, cioè le pennette alla vodka, ma secondo te, cioè, si può, come posso dire, reinventare e dargli una collocazione odierna? Ma assolutamente sì, perché comunque qualsiasi remake o cover si può fare di qualsiasi piatto rendendolo contemporaneo. Logicamente bisogna trovare ripeto, una funzionalità degli alimenti e degli elementi che siano diversi e non questa roba che sguazzava, che galleggiava in questa panna mediamente mal tirata, mal cotta, il sugo poi non era poi così ben fatto. E quindi assolutamente non dimenticherei il tocco di classe che erano le uova di lompo. Ah, è vero, sì. Sopra, rosse e nere. Bene. Il top se te le mettevano sia rosse che nere, se no o erano nere o erano solo rosse, a seconda che ci fosse una presenza di salsa di pomodoro o no nelle penne alla vodka. Quindi possiamo già aprire delle diatribe su com'è la penna alla vodka e salmone. Bene, qual è la vera ricetta? Grazie. Qual è la vera ricetta? Sì. Grazie a Davide Scabin. Devo leggere un ultimo sms. Caro Paolini, mia moglie fa delle farfalle con panna e salmone di cui sono ghiotto. La panna serve per insaporire i piatti altrimenti poveri. Beh, insomma, col salmone non mi sembra che sia altrimenti povero. Forse si potrebbero mangiare anche panna senza la panna, con il salmone basta. Bene, devo dire che mi spiace veramente che abbiamo cercato Gualtiero Marchesi, che doveva intervenire, perché è, diciamo, colui che veramente avrebbe potuto darci uno squarcio su questi anni, dove era già uno chef molto ma molto affermato. Il periodo negli anni 80 ha preso 3 stelle, quindi era, diciamo, conosciuto in tutto il mondo, e purtroppo non siamo riusciti a diciamo a metterci in contatto con lui. Come dicevo, mi dispiace veramente. Bene, io vi do appuntamento ogni giorno con le pillole alle 18:30. Vi saluto, vi auguro un buon weekend, magari con un bel piatto di farfalle alla vodka e magari senza panna. Buona weekend da Davide Paolini.